11:29 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Buongiorno a tutti e tutte da Eddie, in una versione ridotta della redazione di Parole Ribelli, riprendiamo le trasmissioni e allora sicuramente la prima cosa che diciamo ai microfoni delle libere frequenze è liberi tutti e libere tutte. E ovviamente la, diciamo, non è Parole Ribelli, una trasmissione che fa controinformazione dal mondo universitario e oltre. Ma in questo specifico caso l'università non è ancora cominciata, ma l'estate ha già portato parecchio da discutere. Nello specifico andremo a parlare oggi, ovviamente, diciamo, non in maniera troppo dilungata, perché sappiamo perfettamente quali sono i contenuti politici della lotta no TAV, ma andiamo a collegarci un po' con chi c'era l'altra notte in cui sono stati arrestati compagni e compagne e a rilanciare sulla fiaccolata di domani sera. Poi andremo un po' a trattare quello che è un tema, diciamo, caldo sia da vicino che da lontano, i migranti e l'emergenza rifugiati, dal momento in cui abbiamo visto recentemente un'operazione proprio contro manifestanti del corteo contro Salvini. Bene, del 28 marzo, bene, in questo momento in cui una delle grandi contraddizioni del capitale sta proprio nel flusso delle persone nelle frontiere e appunto o nel bloccare questi flussi. Bene, il 12 è stata indetta una giornata di mobilitazione di solidarietà in tutta Europa, sono più di 40 le città che rispondono, Torino non sarà da meno, come a marzo, diciamo, contro la persona specifica di Salvini si articolava un discorso ben più ampio su effettivamente a chi giocano le politiche razziste. Bene, continuiamo allora a mandare avanti, diciamo, a dire che noi non ci stiamo, che di fatto questa guerra fra poveri non ci appartiene, e allora andremo poi a collegarci con una compagna e ci darà un po' di aggiornamenti in vista dell'appuntamento torinese del 12. Adesso un po' di musica e poi andiamo avanti. ACAB. Your whole crew, we will break the fuck up. Niggas sleeping better, wake the fuck up. Your whole crew, we will break the fuck up. Blades and nunchucks, brazen gunshots. When I'm done, they can rake their guts up. Fuck us. He turns your face to slush pup. Ride to hell, this is Satan's bus stop. Got a hot bitch cuffed up. Take the drugs, love. You get raped and butt fucked. I snort speed, then I wake the fuck up. Kinda off topic, but hey, I'm somewhat crazed and drunk off Jamaican rum shots. White, no white boys, cables cut off. Angel dust drop. How that tastes? D.O.D. mad face, close case. Niggas got no taste, no. But when I look at the fuckers and figures, we hard body, karate, Illuminati niggas. I'm a cosy posse, hip hop and deliver. Y'all niggas pop, so I'm popping a shot in your liver. Try and copy what I got and I'll copy your chopper. Niggas claiming they heartless with platoon in your mama. Brains leaking in your head, lady, looking like pasta. Ain't speaking cause you dead on the floor in the pasta. Yeah. See, I'm obsessed with a sport, blessing on court. Rapping with the onyx, niggas back with the force. We back in this war, back in the course. All y'all bootlegging niggas, get your ass to the store. Niggas sleeping better, wake the fuck up. Cause we have it, drape the fuck up. Bloody murder, you get ate the fuck up. Your whole crew, we will break the fuck up. Niggas sleeping better, wake the fuck up. Cause we have it, drape the fuck up. Bloody murder, you get ate the fuck up. Your whole crew, we will break the fuck up. Keep sleeping, beds is burning. Keep sleeping, beds is burning. Keep sleeping, beds is burning. Keep sleeping, keep sleeping. Keep sleeping, beds is burning. Keep sleeping, beds is burning. Keep sleeping, beds is burning. Keep sleeping, keep sleeping. Niggas sleeping better, wake the fuck up. Cause we have it, drape the fuck up. Bloody murder, you get ate the fuck up. Your whole crew, we will break the fuck up. Niggas sleeping better, wake the fuck up. Cause we have it, drape the fuck up. Bloody murder, you get ate the fuck up. Your whole crew, we will break the fuck up. E allora 11.37, come dicevamo, andiamo avanti con questa puntata di Parole Ribelli e andiamo in Val Susa non solo a, diciamo, a dare la nostra solidarietà e a tornare sempre su quei sentieri determinati, ma a rilanciare anche sugli appuntamenti di un'estate di lotta che magari appunto volge al termine come stagione, ma non fa un passo indietro da un punto di vista di determinazione. E allora leggiamo anche i messaggi arrivati al 346-66-73-2-73-263, il numero della radio per mandarci messaggi, per mettersi in contatto con noi, o lo 011-249-5669 per chiamarci. La Val Susa alle AI Notav in carcere, vi amiamo e vi aspettiamo lottando. Bene, questa sicuramente è la migliore delle notizie possibili, nel senso che poi di fatto sappiamo benissimo che la controparte da sempre prova a farci fare passi indietro, ma l'abbiamo sempre detto, resisteremo un minuto in più di loro e rimarremo qui finché non se ne vanno. Bene, quindi un po' di aggiornamenti su gli arrestati e le arrestate. Sappiamo che le ragazze sono tutte insieme, gli avvocati sono riusciti a vederli, quindi sappiamo che stanno bene e che il morale è alto, la solidarietà, nonostante la cosa sia avvenuta in un momento in cui poi poteva essere difficile fornire generi di prima necessità ai compagni e alle compagne. Di fatto la solidarietà che c'è stata dentro al carcere ha fatto sì che non mancasse loro niente. Bene, quindi la cosa a cui adesso andiamo a guardare, oltre al momento in cui li libereranno, che speriamo sia il prima possibile, è mercoledì sera, fiaccolata a Bussoleno per le vie di uno dei paesi che rappresenta anche la storia del movimento No Tav, insieme alla Val Susa tutta, sostanzialmente la sfileremo per le vie dei, appunto per le vie di Bussoleno, ricordando che quelle il motivo per cui i ragazzi sono in carcere è la lotta di tutti e tutte. Adesso vi lascio un altro po' di musica e poi ci colleghiamo con Dana che ci presenterà l'appuntamento. Countdown, step into the cockpit, always on the ground, working hard for the greedy. But when it's time to pay, they turn around and call a deity. My crown too heavy like the Queen Nefertiti. Give me back my pyramid, I'm trying to free Kansas City. Mix and master vibes like your name, Bernie Grubbin. Well, I'ma keep leading like a young Harry Dubbin. You can take my wings, but I'm still gon' fly. And even when you edit me, the booty don't lie. Yeah, keep singing, I'ma keep writing songs. I'm tired of Marvin asking me what's going on. March through the streets, cause I'm willing and I'm able. Categorize me, I defy every label. And while you selling dope, we gon' keep selling hope. We rising up now, you gotta deal, you gotta cope. Will you be electric sheep, electric ladies? Will you sleep? Or will you preach? E allora 11.44, come dicevamo, torniamo a informarci su quali sono le prossime iniziative dalla valle. Siamo in linea con Dana. Dana, ci senti? Sì, vi sento, un saluto a tutti e a tutte. Bene, allora dicevamo che appunto il colpo non è indifferente, perché la mancanza dei compagni e le compagne che sono stati presi si sente, però la valle non si arresta e il gioco di parole è sempre stato vero, non si ferma, e quindi già domani sera saremo di nuovo a dire che ancora una volta siamo Notav, e poi le iniziative sono tantissime ancora, quindi io ti lascio la parola per un po' per illustrarcele. Sì, aggiungerei giusto questa cosa, nel senso che nonostante l'accanimento e l'ossessione dimostrata dalla questura cittadina e dalla procura torinese, la valle, sebbene non si abitui e non vuole abituarsi, ecco, a questi momenti, a queste situazioni, in questi momenti appunto si ricompatta, consapevole del fatto che il percorso fatto è tanto, che è ancora lungo e che lo si vuole fare con tutti assieme, ecco, lo slogan si parte e si torna insieme, non è davvero solo uno slogan, ma è una pratica reale, quindi ecco che immediatamente, già da poche ore dagli arresti, dai fermi dei compagni durante l'azione al cantiere di Chiomonte, si è subito lanciata questa fiaccolata che si svolgerà domani sera alle 20.30 dalla piazza del municipio di Bussoleno. Sarà una fiaccolata di solidarietà, speriamo molto partecipata, ovviamente agli otto compagni che sono compagni e che sono stati catturati, ecco, dalle forze di polizia, ma anche ovviamente agli altri sei che sono stati arrestati per il corteo di fine marzo scorso contro la presenza di Salvini in città. Questa sicuramente è un'iniziativa sicura che si va a chiudere, ce ne saranno diverse altre specifiche che si stanno costruendo. Poi ricordiamoci che oggi inizia il campeggio dei giovani Notav che si sono riuniti pochi giorni fa in Assemblea Nazionale, una rete studentesca molto ampia delle scuole superiori, che si è data, ecco, ritrovo in valle questa settimana per momenti di incontro, di divertimento, ma anche e soprattutto iniziative di lotta. E poi la settimana si concluderà col 12 una passeggiata serale, notturna verso il cantiere, con partenza da Giaglione, mentre domenica il 13, se non erro, ci ritroveremo tutti al presidio di Venaus per pranzare con i cousinè della Valsusa, che faranno una polentata benefit Cassa di Resistenza. Questi un po' sono i programmi dei prossimi giorni, ma ecco, credo che saranno molte altre le iniziative che ci saranno. Bene, sicuramente appunto, come dicevi tu, il movimento Notav continua poi di fatto a dimostrare la sua stoffa e a dimostrare che assolutamente passi indietro non se ne fanno. Poi riguardo un po' quello che dicevi anche su... su, diciamo, l'accanimento e una serie di cose. Ricordiamo che a Torino è cambiato il capo della Digos, è diventato tale Lionetti, che viene da Roma, è stato, diciamo, il numero due dei, degli uffici della dirigenza della Digos di Roma, gli è passata sotto il naso tutta Mafia Capitale, però non gli sfuggono notave antirazzisti. Sono grandi investigatori, vedremo. Infatti, vediamo che gli è sfuggita, diciamo, il sistema, un sistema di controllo su l'intera città, una metropoli gigantesca, però è andato a cercarsi col lanternino, di fatto, chi in mezzo a un corteo molto grande, come può essere stato quello di Maicon Salvini, o a un movimento grandissimo come quello No Tab, poi di fatto si mette in gioco e si mette, diciamo, non abbassa la testa. Noi, cambiano le persone, ma non cambia il sistema. Il sistema è sempre lo stesso, ed è quello che noi, ecco, dobbiamo combattere. Credo che appunto lui sia uno dei tanti che arriva, passa e se ne andrà. La differenza col movimento No Tav, la differenza tra il movimento No Tav e tra tutti questi personaggi, sia che abbiano una poltrona in questura, sia che ce l'abbiano in prefettura o in consiglio comunale, regionale, oppure addirittura in Parlamento e in Senato, che loro arrivano, fanno i loro comodi e poi se ne vanno. Noi invece ci siamo, rimaniamo, e questa, ecco, la garanzia del nostro futuro. Bene, allora Dana, direi che diciamo l'unica cosa da fare è vedersi domani sera a Bussoleno alle 21 in via Walter Fontan. Perfetto, un saluto a tutti e a tutte. Grazie mille, Dana. Ciao. E allora appunto diciamo che c'è poco da aggiungere, perché la determinazione del movimento No Tav dice tutto quanto. Sì, Colle del Fomento, gente deportiata, di nuovo insieme, perché qua è tutto sbagliato. E mi capisci, sì, che non lo so se mi capisci, e oh, sì, nel nome dei partiti, della chiesa e delle banche, un paese che è in cimitero, lavoro nero e morti bianche, auto blu, luce lampeggiante, sparano e poi calano il sipario su uno sfondo rosso sangue. Tu non conta più se sei innocente o colpevole, non esiste logica, non ci sono regole, ma trappole per battannà, fuori dal binario, sei carne da macello, statistica da notiziario, tutto è mannato, al contrario, pianificato, sacrificato al dio della finanza e del mercato, il prezzo per il nulla che ti danno è raddoppiato. E in nome del profitto ogni diritto è cancellato. E a nessuno pare strano, tutte queste strade piene di soldati con il mitra in mano, fucile altezza uomo per difendere l'impero. È tutto sbagliato, ma il peggio è che tutto è vero. Loghi che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono, esplodono. Stavo con quello che avete cambiato, che avete lasciato, ed è tutto sbagliato. E siamo occhi che odiano, mayday nella testa, pensieri che esplodono, implodono. Sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato, ed è tutto sbagliato. Così non va, mo parliamo sul serio. Tocca cambiare, ma cambia è meglio, e svario. Pensiero fisso da quando mi sveglio, al giro perso in un mondo che straio, dove tutto è sbagliato, già tocca darci un taglio. Mondo mio bello, se un guaio sporco, un gioco storto, e boom, un giorno un altro morto. Un altro corpo che si è portato via un cuore, un'altra bocca che maledice il Signore. Qua più che amore c'è dinamite in questa polveriera. Devo fa e devo andare prima che venga sera. Là fuori è tutto sbagliato e si respira nell'atmosfera. Resta fermo, impalato, non si risolve, se spera. L'amicizia è accesa, ma non si sa quanto dura. E nella vita ci vuole coraggio, saggio, figlio della paura. Io intanto faccio se vedo che fa bravura. Ho fatto bene, ho fatto male, risposta dura. Sono incastrato in questo stato mentale, dove è tutto sbagliato, è tutto da rifare, da capo. Tutto va puttane, è tutto da buttare. Nel cranio c'ho un vulcano che è già pronto ad eruttare. E io più primo sto sbagliato e sbaglio, avvelenato con la bava e non me metto nel bavaglio. E c'ho sto bagaglio pieno seppo d'errori, alla fine non so meglio, sono cresciuto qua fuori. Tra impostori con la faccia pulita, mio caro onorevole, la faccia finita. C'è sangue negli occhi e la faccia finita. Dico tutto sulla traccia e rido in faccia alla vita. Io resto a galla mentre tutto sprofonda, e se tutto crolla, dove

que ça ne marcherait pas. Faut que tes dires, faut que tes normes, faut que toutes tes barrières. Si ça marchait, les gens qui porteront ma zique de toutes les manières. J'ai fait mes armes dans l'ombre, je vois rien à dégâts. Oui, j'ai roulé ma bosse et j'ai pas fait la hesse. J'ai pas de grand frère et je suis là sans avoir clashé personne. J'ai pas renié un seul de mes principes. Tu peux parler, mais si mon cœur était mon fond de commerce, t'aurais sorti un album par année. Si j'ai failli tout plaquer, c'est qui si je me sens à l'étroit? Difficile d'imaginer le poids, alors j'écris à la belle étoile. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle de l'ombre des deux hauts, le nez toujours pour et dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas un bon casque qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle de l'ombre des deux hauts, le nez toujours pour et dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas un bon casque qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant les clips. Ce temps coulé de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Prendre sèche ou son message, est-ce que j'oublie pas de tourner mes palabres? Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille, porte les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos, oui j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier les portes, j'ai osé croire en mes rêves. Qui le fera quand tout se te fait rentrer dans les normes? On rentre pas dans les normes parce qu'ils ont inventé les rêves. J'ai prôné l'insoumission, j'ai osé refuser les sorts. Oui, j'ai osé croire en moi-même. J'avais ta route et ta mission. J'ai toujours été autonome, j'ai attendu après personne. Je trouvais la vie monotone, je voulais pas connaître que la même zone. J'ai osé marcher sur le globe et dévier les côtes pour dévisser les portes. Avec ma plume, j'ai dévié les portes. Veux mettre à l'épreuve ma foi. J'ai dû me sortir de la merde en rêvant de faire entendre ma voix. Et à ceux qui prétendent savoir, qui me prédisent le placard, petite fraudeuse au bout du monde, presque reconnue à chaque gare. Donc j'ai marathon, passe à l'action, bouquet en bouquet, fausse déclaration, émanation de choses irréelles. Bam, arrivé sort comme une déflagration. Jeune vagabonde qui quand la masse affronte, puis amie de chaque passion. Aux couleurs j'écris à la bombe mes rêves sur les murs, cris de la nation. Par effraction, je suis rentré dans le rap. Je prends que la vie me donnera, je prends chaque seconde. J'ai un doigt à vos côtes pas. On m'a dit laisse tomber c'est trop tard. Mais j'ai fronté sourcils français. Je n'ai fronté au front. J'ai osé défier l'empire. J'ai osé regarder mes dos. Oui j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier les portes, j'ai défié les portes. Et j'ai osé croire en mes rêves. Qui le fera pour tout moi? Tous veulent te faire rentrer dans les normes. On rentre pas dans les normes parce qu'ils ont inventé les rêves. J'ai prôné l'insoumission, j'ai osé refuser les ordres. Si je les avais écoutés, je serais devenu l'ombre de moi-même. Le cœur lourd, l'âme étouffée, j'avais aucune chance, mais je l'ai prise quand même. Je serais devenu aigri par mon audace de ma vie. À regarder les trains qui passent, les bâtiments et son parfum. J'aurais fini par rouiller dans sa routine et sa démence. À ne faire que le tour du quartier, comme si tout était vide de sens. Alors j'ai sauté dans le vide de l'enjeu, dans le vide je me lance. Et puis j'ai osé penser seul, oui, et j'ai osé dire ce que je pense. J'ai osé pousser les limites, déplacer les montagnes, frapper les interdits, assurer les battements de mon âme. J'ai osé conjurer le sort et les schémas de longue date, quitte à choquer ceux qui disent que son passé te condamne. J'ai osé regarder mes dos, oui j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier les portes, j'ai défié les portes et j'ai osé croire en mes rêves. allora riproviamo a tenere il collegamento con Mati. Mati, ci senti? Sì, mi sento. E vai, finalmente. Sento. Problemi tecnici, diciamo, non ci fermeranno. Bene, dicevamo, il 12, giornata internazionale, giornata europea di solidarietà, giornata che vedrà partecipare anche Torino. Torino con dei motivi molto forti, non solo, diciamo, perché anche appunto è un qualcosa che riguarda tutti e tutte, nel, sia diciamo nelle comunità urbane che non su larga scala, ma anche perché la, diciamo, andiamo anche a sostenere la libertà dei compagni e le compagne che sono stati arrestati per il corteo del 28 marzo a Salvini. Sappiamo appunto, quindi, Salvini specchietto per le allodole di una politica che poi di fatto è completamente bipartisan ed è soprattutto sempre a favore, diciamo, di pochi a scapito della maggior parte di noi. Io, Mati, ti lascio la parola per questo appuntamento del 12. Sì, allora appunto, solo, diciamo, anche a Torino abbiamo pensato di partecipare, di poter proporre un corteo nella giornata del 12, una giornata che è stata chiamata, come dicevi bene tu, a livello europeo, con un appello molto largo, con la possibilità, insomma, di costruire in tutte le città europee iniziative di solidarietà che possano andare dal corteo alla raccolta di alimenti e vestiti, al invece provare a dare una mano ai rifugiati, a passare le barriere della Fortezza Europa. Insomma, logicamente i paesi dove ci sono più iniziative sono i paesi che sono al centro adesso, in questi giorni, dell'ondata di rifugiati siriani che stanno arrivando via terra dai Balcani. L'Italia in questo senso rimane un po' una periferia, però abbiamo visto insomma negli scorsi mesi comunque che sono rimaste tutte le estate numerosi sbarchi nel sud del nostro paese, così come abbiamo attraversato l'esperienza di Ventimiglia, che è ancora in piedi, e leggo adesso sui vari siti che proprio in questo momento a Ventimiglia i migranti al presidio no border stanno bloccando la frontiera italo-francese. Quindi insomma è un argomento di massima attualità, in cui in qualche modo ci siamo chiesti come anche noi da Torino potessimo dare la nostra solidarietà attiva. Si ricollega anche logicamente agli arresti che ci sono stati pochi giorni fa per il corteo di Salvini del marzo scorso. E quindi insomma ci sembrava importante comunque tenere un collegamento per far capire anche che insomma ci interesserebbe costruire un momento di lotta comune, di solidarietà attiva, che troviamo nelle lotte e nelle piazze, non solo insomma quella solidarietà un po' da condividere sui social network la foto del bambino affogato, piuttosto che solidarietà dei paesi come la Germania, che ora sembra aprire il corridoio umanitario, ma che ben sappiamo che insomma apre per chiudere altre barriere ancora, e che lo fa con un'ipocrisia sconvolgente, dato che sono le stesse persone, gli stessi paesi che ora fanno la bella faccia davanti alla tragedia dei rifugiati, che invece quella tragedia lì l'hanno creata nei loro paesi e la continuano a perpetrare nel rinchiudersi nella Fortezza Europa e facendo morire le persone nel tentativo proprio di valicare i confini del nostro continente. Sì, un po' come Salvini che di fronte alla foto di Aylan, il bimbo, diciamo quella ormai l'iconografia, certo, della tragedia, ormai dichiara lacrime, sì, di rabbia e indignazione. Anche Salvini si è indignato, però ben sappiamo invece che è proprio Salvini quello che, per quanto magari non è solo lui e non è proprio lui il problema maggiore, nel senso che possiamo anche definirlo in qualche senso uno specchietto per le allodole, come dicevi prima tu, però dall'altro lato è proprio lui col suo partito e la sua retorica razzista e xenofoba che in qualche modo ci pone anche il problema di voler creare una divisione e una guerra tra poveri invece che riconoscersi nell'oppressione tra italiani e migranti, tra europei e rifugiati che tentano di entrare appunto nei nostri paesi. Quindi insomma non è comunque da sottovalutare come figura e come impostazione proprio di un discorso che tende proprio a dividere quelle che invece sono composizioni sociali che dovrebbero ricomporsi nella povertà contro chi invece ci fa subire tutta una serie di leggi terribili che poi portano anche alla crudeltà e alla tragedia del bloccare le frontiere in questo modo. Quindi insomma, per arrivare più all'aspetto pratico invece, il corteo di sabato 12 a Torino sarà un corteo serale che partirà dalle 8:30 dalla stazione Porta Nuova. Ci interessava farlo partire da lì un po' per dare un richiamo rispetto al luogo delle stazioni, che sono un luogo di arrivo e di partenza e che sono un luogo anche in cui stanno arrivando tantissimi migranti in Austria piuttosto che in Germania in questi giorni. Abbiamo visto anche quello che è successo a Budapest, come è stata il centro anche sì, o insomma il corteo di Zurigo da 15.000 persone di pochi giorni fa. Quindi ci interessava dare questo richiamo rispetto al luogo della stazione, e allo stesso tempo è proprio in piazza Carlo Felice che si trova il consolato francese, e anche lì, anche se sarà chiuso, però simbolicamente è importante anche il consolato francese rispetto all'esperienza che abbiamo tutti quanti attraversato magari quest'estate, o che comunque ci è più vicina e familiare, che è quella di Ventimiglia e quindi del confine italo-francese, su cui insomma da mesi sono in presidio rifugiati e solidali. Partirà quindi alle 8:30 davanti alla stazione di Porta Nuova questo corteo fiaccolata, che arriverà poi dentro la Cavallerizza Reale, dove insomma speriamo di poter fare un momento di riflessione e discussione collettiva. All'interno del corteo vorremmo caratterizzarlo anche con numerosi cartelli e messaggi, quindi lancio anche un appello perché ciascuno che voglia partecipare al corteo porti anche il suo messaggio, magari attraverso un cartello, una scritta, uno striscione, insomma in modo creativo e aperto. Niente, quindi arriverà in Cavallerizza, dove poi continuerà la serata poi insomma valuteremo se installare in Cavallerizza magari una bacheca fissa per raccogliere messaggi di solidarietà con i rifugiati e con i migranti, faremo sapere se poi ci sarà la necessità di raccogliere fondi, risorse, beni di prima necessità, vestiti per il presidio di Ventimiglia. Bene, direi che diciamo c'è tanto sicuramente da dire e fare in merito, e quindi sicuramente quello del 12 può essere un ottimo punto di inizio per poi appunto aggredire quella che sono contraddizioni in cui poi di fatto sì, tanti e tante soffrono e magari perdono anche la vita, diciamo, come dicevi tu, sui confini della fortezza dell'Europa, ma che poi vediamo anche possono essere quello spiraglio, quella crepa in cui ci inseriamo e effettivamente poi

troppe cravatte e camionette. La tensione sale e scende tra chi è sporco di cemento e non guadagna niente, tra chi ha pagato per studiare e sta dentro un call center, tutti con l'estintore in mano per sempre. Mostra il chilo per le pacche, sì, i complimenti. Stai nella tua vita con lo stress tra i denti, lo stop, le patenti, il tetto fa brutto, ti fumi gli argomenti per scordare tutto. Una domenica bestiale, la finta morale, c'è chi decide regole, il distacco sociale, la storia, la preda, chi se ne fotte se dissoci dal collega, se non denunci ti piega. Ho gli occhi rossi e sono fuori certe notti, storie di rap e cannoni con i picciotti, non ho mai preso un coltello, ho preso cazzotti. Se sei una bestia cosa cazzo ti confronti? Parlo con le mani nelle tasche gelate, la vita stringe i tempi, manganelli e timpolate. Vorrei scordare tutto ma non posso, non vale, questo circuito è chiuso, play rec, girare. Vorrei portare in giro frammenti di verità, ma in giro sono spenti i lampioni delle città e a volte tutto sembra uguale. La tua storia si sa, come essere liberi al commissariato libertà. R.I.P. to the people no longer here. R.I.P. for all of you I shed a tear. R.I.P. why did the good die young? You gotta prepare for when your time coming, yeah. R.I.P. I keep you in my heart forever. R.I.P. the world becoming hard to measure. R.I.P. you gone, we never regret all the time we had together, I'ma never forget it, yeah. R.I.P. yeah. R.I.P. Shawn Michaels. R.I.P. R.I.P. to everybody no longer here. Everybody we lost in the struggle. R.I.P. to the street. R.I.P. From New York to Palermo. My heart go out R.I.P. to everybody who feel pain, you know? 12 e 24, siete all'ascolto degli ultimi minuti di Parole Ribelli, che poi lascerà il microfono al GR di Blackout. E allora, diciamo, una puntata densa nonostante i punti all'ordine del giorno fossero pochi. Quindi ricordiamo, prima di lasciarvi, rispondiamo a un messaggio arrivato al 346-66-73-263, il cellulare Radio Blackout e lo 011-249-5669. Per chiamarci, ricordiamo sempre i contatti. Chiedevano chi fosse il gruppo francese che prima passavamo, diciamo, per intrattenervi mentre i collegamenti non si ribellavano alla nostra, ai nostri comandi. Era Kenny Arcana. Sono passate, diciamo, due tracce di Kenny Arcana, José e Jean Presset nello specifico. Ricordiamo anche un appuntamento, il 2 ottobre, mobilitazione nazionale studentesca. Sta girando un po' questo messaggio ed è arrivato anche al cellulare di Radio Blackout, per chi, ma soprattutto, diciamo, ricordiamo gli appuntamenti di cui abbiamo parlato in questa puntata, perché non sono solo, diciamo, scadenze o momenti a cui sarà importante partecipare, ma un po' queste le questioni politiche che di fatto interessano il nostro territorio in maniera più o meno diretta, nello specifico la questione del treno ad alta velocità e soprattutto la questione della lotta al treno ad alta velocità. Quindi il movimento No TAV, d'appuntamento a tutti e tutte domani sera alle 21 nel piazzale della chiesa del municipio in via Walter Fontan a Bussoleno, tutti e tutte a reclamare, diciamo, la libertà dei nostri compagni e delle nostre compagne. Poi andremo, diciamo, sempre in Valsusa. Proprio oggi comincia a Venaus l'appuntamento dei giovani, il campeggio dei giovani Notav, ricco di iniziative e di momenti, diciamo, sia di riflessione che di confronto, ma anche di socialità, di convivio. Quindi proprio oggi, per esempio, alle ore 20 cena resistente, alle 21 per chi se lo fosse perso presentazione e proiezione del film qui, anche domani sempre ci sarà la cena in Clarea alle ore 20, il mercoledì 9, mentre venerdì alle 18 apericena ai cancelli e giovedì di nuovo appunto iniziative anche in Clarea e per arrivare poi a venerdì con questa apericena e sabato alla chiusura del campeggio, che vedrà un'assemblea degli studenti e delle studentesse e dei giovani di Notav che si sono dati appuntamento a Venaus. Poi, diciamo, quello che ovviamente la Valle ha da dire non finisce qui, ma ci riaggiorneremo per i prossimi appuntamenti martedì prossimo eventualmente. E il 12 invece è molto importante, come abbiamo fatto, come appunto c'è Matilde prima ci ha illustrato un po' le ragioni di questo corteo, di questo appuntamento, il 12 settembre, giornata internazionale, giornata europea di solidarietà con i rifugiati, la parola d'ordine diciamo è welcome refugees. Noi non abbiamo, diciamo, non c'è nessuno di straniero nei nostri quartieri. E quindi Torino, un po' nella, appunto, vicina a Ventimiglia, non zona di frontiera di per sé, ma molto vicina ad altre, ma soprattutto, diciamo, territorio anche saccheggiato da coloro che poi, dalla Lega Nord nello specifico, che si riempie da anni a questa parte la bocca di retoriche xenofobe e razziste, per poi vedere nel leader Salvini la commozione, le lacrime di rabbia e di indignazione che senza nessun impegno, diciamo, a parole lancia, ma poi effettivamente vediamo quali sono le azioni concrete. Poi ricordiamo appunto anche che la volontà di mantenere subalterni tutti coloro che un po' si mettono in viaggio per magari cercare per sperare in una possibilità migliore, sono politiche poi bipartisan. E come abbiamo già detto, oggi più che mai l'antirazzismo, l'antifascismo, l'opposizione diretta e concreta a queste politiche altro non è che la lotta di tutti e tutte, perché di fatto lo sfruttamento non conosce colore, conosce sì sicuramente delle differenze di condizione, ma poi di fatto chi ci vuole oppressi e rinchiusi non ha interesse davvero al nostro colore, ha interesse solo a espropriare, diciamo, quello che poi di fatto ci appartiene. E allora, come il 28 marzo Salvini provò a dire la sua in questa città, non gli si lasciò spazio. Bene, oggi compagni e compagne pagano con la libertà questa scelta, allora sicuramente non possiamo far altro che richiedere la loro immediata liberazione, anche per, appunto, come si diceva e come dice bene nell'evento Facebook di questa, della partecipazione, diciamo, di Torino a questa giornata, bisogna che si smetta di essere spettatori, bisogna levarsi di dosso questa passività, bisogna mettersi in gioco, bisogna gridare a gran voce che diciamo chi oggi si mette in cammino, chi oggi ha qualcosa per cui lottare, non conta sulle belle parole di politici che poi si intascano, diciamo, con l'altra mano tutto quanto, ma può contare sull'azione diretta e concreta di persone che sono disposte a lottare insieme. Con questo Parole Ribelli, diciamo, chiude questa prima puntata dell'anno, una puntata appunto che vede una redazione dimezzata. Noi vogliamo, diciamo, io nello specifico in questo momento altro non posso fare che appunto usare questi microfoni ancora una volta, come tanti della redazione sempre non mancano di fare, per augurare che la libertà dei nostri compagni, delle nostre compagne avvenga il prima possibile, per ricordare che la nostra determinazione di certo non si arresta di fronte a alle piccole ossessioni della questura torinese. Ci risentiamo martedì prossimo, ciao a tutti e tutte.